maggio 77, la morte dell'allora diciottenne Giorgiana Massi, militante radicale. Ma riascoltiamo innanzitutto, per chi non ce lo non ricorda, una sintesi della diretta di Radio Radicale di quel giorno che, con i pareri e le testimonianze di quanti si trovavano a Piazza Navona e dintorni, e con gli interventi che i parlamentari radicali pronunciarono alla Camera durante l'evolversi di quegli avvenimenti, rende una chiara immagine del contesto in cui si svolsero quei fatti. Come saprete, c'era stato, volevamo dire, abbiamo indetto una manifestazione pacifica di massa della musica, come aveva fatto la Rai Radio Televisione Italiana domenica scorsa, per oggi a Piazza Navona e per raccogliere firme. All'una l'impianto è stato disattivato, la polizia ha sequestrato l'impianto di amplificazioni e i microfoni, impedendoci di portare avanti la nostra manifestazione musicale. Poi verso le 3 la polizia ha completamente circondato Piazza Navona e impedendo ai compagni che volevano recarsi nella piazza di passare, anche esibendo i documenti e entrando come privati cittadini, la polizia non faceva entrare a Piazza Navona. Subito dopo sono iniziate le prime cariche della polizia, come abbiamo sentito dai servizi precedenti, e lo dico ora per chi si fosse messo in ascolto, sono stati malmenati anche dei parlamentari, è stato spintonato Gorla, Mellini ed è stato malmenato Mimmo Pinto di Lotta Continua. Ci sono le foto, le testimonianze fotografiche di Mimmo Pinto a terra, spintonato e preso a calci mentre si ripara col tesserino da parlamentare. Perciò, come abbiamo visto nel clima instaurato, come si è instaurato il clima oggi, non bastava né il tesserino della stampa né il tesserino di parlamentare per poter entrare nella piazza, per evitare di essere picchiati, malmenati dalla polizia. È stato poi un susseguirsi di cariche fino a tarda sera. La violenza che c'è stata oggi è stata da una parte sola, salvo sporadici episodi, ma ripeto molto, molto sporadici. Soprattutto la violenza è stata da parte della polizia, che ha costantemente caricato i compagni, lanciava candelotti lacrimogeni appena vedeva gruppi superiori alle 2-3 persone. La situazione si è mantenuta piuttosto tesa fino a tarda sera. Dopo, alle 8.30, come avevamo più volte preannunciato, abbiamo detto ai compagni di lasciare la piazza, compagni che andavano a passeggio, passeggiavano, possiamo dire, intorno a Piazza Navona. La polizia ha tenuto un comportamento molto duro, un comportamento provocatorio. Caricava, ripeto, compagni a gruppi di 3, ci sono stati anche 2 compagni feriti, come abbiamo sentito precedentemente. Subito dopo, Marco Pannella, Mauro Mellini e altri parlamentari radicali di Democrazia Proletaria hanno chiesto che il governo rispondesse immediatamente al Parlamento del comportamento della polizia, che la polizia ha tenuto oggi in piazza. Il Presidente della Camera, che sostituiva Ingrao, il Presidente di turno Mariotti, ha chiuso la seduta mentre c'era l'intervento di Mimmo Pinto. Subito dopo Mimmo Pinto si è incontrato col Presidente della Camera Ingrao, questo mentre Marco Pannella teneva aperta la porta dell'aula. Infatti Mimmo Pinto aveva dichiarato che non si sarebbe mosso dall'aula fin quando non avesse ottenuto precise garanzie che il governo avrebbe risposto sul comportamento tenuto oggi dalla polizia. La risposta è venuta dopo circa mezz'ora di trattative fra Mimmo Pinto e il Presidente della Camera Ingrao e telefoniche con il governo. Il governo si è impegnato a rispondere domattina in aula alle interrogazioni presentate dal gruppo radicale e dai gruppi di Democrazia Proletaria. Ora la situazione pare sia tranquilla in quasi tutta Roma. Compagni radicali dormiranno questa notte sul palco a Piazza Navona. Anche per questo ripeto l'appello: portate coperte, portate sacchi a pelo giù a piazza, a largo di Torre Argentina 18, che li faranno arrivare ai compagni che sono a Piazza Navona. Questo per ora, direi, a grosse linee è tutto. Mi scuso se ho dimenticato alcuni punti, ma sono particolarmente stanco stasera, particolarmente sconvolto per tutta la giornata che io ho seguito qui in radio, per i fatti che si susseguivano nella piazza. Fra circa un'ora avremo qui con noi Pino ed altri compagni che hanno seguito da vicino l'evolversi della situazione e che vi daranno commenti aggiornati, vi manderanno appunto in onda dei servizi registrati durante la giornata di oggi. Mauro Mennini. Abbiamo detto, sono stato, mi sono andato verso dal fondo della piazza, dalla parte di Corso Vittorio, e su Corso Vittorio sono stati sparati i candelotti fumogeni e quindi evidentemente sono successi gli incidenti. Adesso vedo dalla parte del Senato dei poliziotti, dei carabinieri con giubbotti, addirittura con giubbotti antiproiettili. È evidente a questo punto un atteggiamento di follia da parte di chi dirige l'ordine pubblico in queste condizioni. E la cosa molto grave, dalla parte sul fondo di Piazza Navona c'è una squadra di poliziotti, perché non possono essere altro che poliziotti, che stanno anche insieme ai poliziotti in divisa, che sono armati, abbiamo visto, in borghese, difficilmente riconoscibili, perché non hanno nemmeno il solito abbigliamento dei poliziotti, ma con chiaro il solito modo di travestirsi, un po' mezzi per passare per manifestanti, armati di pistola. Questo è un fatto molto grave, perché ovviamente in queste condizioni possono succedere le cose più incredibili in situazioni di questo genere. Avete probabilmente sentito, c'è stato un colpo di lacrimogeno dalla parte della gelateria, della piccola gelateria. Comunque questa è una comunicazione di servizio. Preghiamo i compagni di Radio Città Futura di telefonare e mettersi in contatto con Radio Radicale, in maniera che ci sia un telefono tra Radio Città Futura e Radio Radicale, per poter dire quando arrivano telefonate di compagni a Radio Città Futura, di poterle mandare in onda, creando il ponte all'inverso. Ezio, mi senti? Sì, ti sentiamo bene. O chiamateli voi Città Futura, sì. In maniera che potete... Magari li chiamiamo adesso noi un attimo, appena... Ecco, in maniera che facciamo il ponte al contrario. Senti, io vi volevo dire una cosa, mentre verso le 4 ci collegheremo anche col Parlamento, che dovrebbe esserci un intervento appunto su questi fatti che stanno succedendo ora. E poi volevo ancora segnalarti che ci sono anche guardie di finanza a Ponte Umberto e continua la caccia alle radio. Un compagno ha telefonato un attimo fa dicendo che gli hanno rotto la radio all'esterno di Piazza Navona. Queste sono le notizie che noi abbiamo qui in redazione. Ecco, Ezio? Sì? Continuano i lacrimogeni intorno alla piazza, adesso è tornato Renzo che forse c'è qualcosa da dire, poi faremo una comunicazione perché dobbiamo telefonare al gruppo, sì? Quindi interromperemo per un attimo. Va bene. Sì, ecco, sono Renzo di Radio Città Futura. Quello che volevo dire è che la piazza è stata piano piano invasa, sono filtrati attraverso i cordoni della polizia delle persone in borghese, delle strane persone in borghese, che poi sono stati identificati come degli agenti delle squadre speciali. Sono tutti quanti armati, in borghese, mascherati come al solito. In questo momento la polizia, i carabinieri che stanno... ai lati della piazza hanno imbracciato i moschetti, cioè i fucili, e hanno messo il colpo in canna. Questa è un'indicazione, ma comunque probabilmente lo fanno più per paura che per altro. Pronto? Sento? Sì? Senti, c'è un problema, ci sono dei compagni che stanno all'esterno, vorrebbero sapere cosa devono fare, stanno ascoltando la radio. L'indicazione per tutti i compagni che stanno all'esterno e che stanno concentrandosi è di continuare a girare nella zona, ecco, e mantenersi nella zona. È importantissimo, calmi, senza correre. Deve essere una manifestazione che deve avere il suo seguito. Vorrà dire che se non ce la fanno fare all'interno di Piazza Navona, noi la porteremo all'esterno, la continueremo a portare per le vie di Roma. Questo è importantissimo. Ecco, è arrivato adesso qui sul palco, dove ci abbiamo allestito il telefono, il compagno Mimmo Pinto, deputato di Democrazia che lacrimante. Ti diamo il telefono, sei in diretta, Mimmo. Sei in diretta. Pronto, Mimmo? Pronto. Sì. È assurdo, ci stanno scene di violenza di regime argentino e brasiliano. I giornalisti sono stati cacciati, picchiati. Stavamo là, i deputati ci siamo presentati, a parte un linguaggio oltraggioso, andate a lavorare, chi cazzo siete, fate schifo, questo livello qua. Poi con la tessera in mano mi hanno picchiato, mi hanno fatto fare voli di 3-4 metri. Sarebbe la cosa meno grave, solo che ovunque ci stanno 5-6 compagni fermi, stanno facendo provocazioni lacrimogene. Secondo me oggi sta giornata in questo modo possiamo anche vincere, sempre una contraddizione dopo le cose che ho detto inizialmente. Però se la stampa ha un minimo di democrazia, di serietà professionale, possiamo dare notizia di quello che sta succedendo. La possiamo vincere come unica arma la nostra volontà a scendere in piazza, ad essere democratici, a conservare la democrazia. Avremo la forza di gestirla politicamente? Io penso di sì, se riusciamo a mantenere la scelta iniziale di fare questa manifestazione in modo pacifico e di mano. È il sistema che sta rispondendo in questo modo. Stanno sollevando secondo me un massimo per lasciarlo cadere addosso. Non voglio teorizzare la non violenza, però oggi all'interno della lotta di classe è una scadenza importante, perché oggi bisogna portarla a termine. Ecco, questo era Mimmo Pinto, deputato di Democrazia Proletaria, e come avete sentito è stato picchiato dalla polizia mentre cercava di entrare qui in piazza. Ormai la piazza è piena di fumo, di lacrimogeni, parliamo di piazza Navona. Sento, dimmi. Sì, senti, mi servirebbero due cose. Prima, se mi cerchi Gianfranco un attimo e me lo passi. Sì, Gianfranco è qui davanti. Sì, che mi serve. E poi comunico agli ascoltatori che ci colleghiamo in diretta con Montecitorio, dove c'è un intervento di Marco Pannella sui fatti che stanno succedendo ora in piazza. D'accordo. Dica, onorevole. Signor Presidente, intanto volevo dirle che ho doverosamente nei suoi confronti, non in genere una necessaria pazienza, ma siccome lei aveva chiesto un momento fa se non vi erano obiezioni, io volevo avanzarne una e quindi cercavo di farmi ascoltare a lei, non importa, lo farò nel processo verbale di domani, signor Presidente, era una correzione. Ma in realtà adesso comunque le avrei chiesto la parola per informare lei stesso, signor Presidente, e i colleghi di qualcosa di estremamente grave che è in corso in questi momenti a poche centinaia di metri dal nostro Parlamento e che ci crea grave turbamento e che in prospettiva può saldarsi, lo dico qui subito, in base ad un disegno chiaramente criminoso in atto con una di quelle notizie alle quali siamo abituati e sul quale, se chiamiamo il Ministro degli Interni, se il Governo a rispondere tempestivamente, possiamo scongiurarla. Il fatto è questo, signor Presidente, sei parlamentari del nostro Parlamento, sei parlamentari, una marea di giornalisti, dei fotografi hanno assistito al fatto che chiedendo, nel momento in cui si chiedeva chi fosse il responsabile del servizio d'ordine da parte della polizia, per poter prendere gli opportuni contatti, per 20 minuti si è rifiutato ai parlamentari di far sapere dove e chi fosse il responsabile. Immediatamente, mentre accadeva questo, a freddo dei carabinieri picchiavano dei fotografi, a freddo picchiavano dei fotografi, dei giornalisti, spintonavano dei deputati. Vi erano, la forza pubblica ha creato uno schieramento in modo tale, signor Presidente, che migliaia di turisti, in questo momento migliaia di turisti e di passanti stanno creando per le strade di Roma degli ingorghi e sono anch'esse caricate, si stanno lanciando bombe lacrimogene contro dei manifestanti che non sono ancora arrivati. Per la prima volta da 25 anni si è chiusa Piazza Navona di fronte a una manifestazione musicale e non si consente di raccogliere le firme, ma in questo momento, signor Presidente, quello che intendo sottolineare è che prima che delle persone di poter essere dei manifestanti fossero giunte in quella zona di Roma, si stanno lanciando, caricando le persone, creando un turbamento all'ordine pubblico sul quale qualsiasi malintenzionato può, fra mezz'ora, un'ora o due ore, creare quello che evidentemente da parte di alcuni ambienti ufficiali si è cercato di creare. Poiché, signor Presidente, è logico pensare che solo tenendo presente il traffico di Roma, da Corso Vittorio Emanuele passano migliaia e migliaia di persone, fra un'ora cominceranno a passare come tutti i giorni, e che a questo si possono aggiungere eventuali persone che venivano a firmare, e quindi è matematico, signor Presidente, che se il questore di Roma e il ministro degli interni non ristabiliscono normalità di circolazione per i non manifestanti, si è creata a freddo a Roma da ieri a avanti ieri una di quelle situazioni nelle quali poi chi venisse a commemorare coloro che cadono non sono altro che i responsabili e i mandanti degli assassini. Onorevole Pannella, credo che quindi il governo lo sia chiamato urgentemente a rispondere. Onorevole Pannella, su quanto da lei denunciato, so che l'onorevole Presidente ha preso subito contatto con il Ministro dell'Interno. Non so in realtà cosa il Ministro degli Interni abbia risposto, so che il Presidente della Camera ha anche sollecitato una risposta, direi molto sollecitamente, rapidamente, all'interrogazione da lei presentata. Oltre questo non è competenza della Presidenza, perché i provvedimenti sono stati emessi dal Governo e precisamente dal Ministro degli Interni. Presidente, mi auguro però che altri colleghi di quest'Aula, mentre incassano i minuti e il tentativo che si sta per fare, vogliono unire alla nostra voce anche la loro, perché tutti coloro che abitano a Roma sanno, signor Presidente, che se senza nessuna manifestazione fossero prese le misure di ordine pubblico che sono prese, matematicamente a Roma fra ora ci sarebbero in un giorno normale incidenti gravi. Onorevole Pannella, lei dovrebbe essere il primo, dato che l'assicurazione del Ministro dell'Interno risponderà solitamente alla congregazione, di andare a cercare di calmare gli animi, primo lei. A calmare, abbiamo rinunciato oggi a fare i comizi, lo abbiamo comunicato ieri stessa. Ci sono 5 parlamentari che hanno chiesto di poter fare questo lavoro. Pannella, lei ha già parlato, io ho già detto, lei avrà... Ma sapete, è grave che lei mi rimproveri di essere qui invece lì, lei, ma che proprio lei mi rimproveri. Ma non rimprovero niente, onorevole Pannella, lei ha fatto un mese ai parlamentari. Ma è stupito. Ma senta, non parli sempre lei, io dico che... Lei ha fatto appello ai parlamentari di vedere se si riesce a sedare un po' l'esercitazione. Se lei va da quella gente e in realtà dice loro che il Ministro degli Interni risponderà solitamente alle sue interrogazioni, vedo che vengano a mancare motivi per questa esercitazione. Quindi io sarei Vabbè, in ogni modo io le ho già detto, credo che il Presidente abbia avuto premura di prendere subito contatto al Ministro degli Interni e che è stato peraltro sollecitato a rispondere rapidamente alle sue interrogazioni. Oltre questo noi non possiamo fare. Va bene. Alcune comunicazioni. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati, Bocchi ed altri. E questo che abbiamo ascoltato era l'intervento di Marco Pannella del Parlamento, sempre Radio Vaticale. Posti di preside medicei. E abbiamo un'altra telefonata. Sono Paolo? Sì. Se no non fa niente, parli. Siamo in onda, Marina, vai così. Paolo, siamo in onda, parla pure. Pronto? Hanno caricato in questo momento a Corso Vittorio e a Largo Argentina. Sono stati sparati dei colpi di Molotov e dei colpi di lacrimogeno, e un lacrimogeno è entrato là dentro la Banca d'America e c'era un principio di incendio, fra l'altro. È tutto. E questa è un'altra telefonata che abbiamo ricevuto dai compagni che stanno attorno a Piazza Navona. Ripetiamo ancora l'invito a tutti i compagni che stanno intorno a Piazza Navona: camminate e fate l'elastica, insomma andate avanti e indietro senza porre nessun tipo di resistenza, pacificamente, senza correre, camminate tranquillamente attorno a Piazza Navona. Siamo nuovamente collegati con Piazza Navona, c'è Sandro, dici Sandro, parla. No, adesso... Quanto siamo in onda? Sì. Allora io pregherei per cortesia, se i compagni di Radio Città Futura, che in questo momento non sono collegati con Radio Radicale, ascoltano Radio Radicale dal monitor, per favore di sintonizzarsi su Radio Radicale, perché da qui, dalla piazza, possiamo dare delle informazioni e poi di telefonare a Radio Radicale, di mettersi in contatto anche telefonico. Quindi preghiamo i compagni di Radio Città Futura di sintonizzarsi su Radio Radicale. Allora, noi vediamo le ultime cose che sono successe qui intorno. Ci sono stati i compagni che naturalmente sono... è partito in questo momento un cellulare e praticamente è successo questo, che i poliziotti stanno sparando su qualsiasi gruppo di persone che superi le 3 o le 4. Prima abbiamo visto un gruppo di persone di una 10 lacrimogeni, naturalmente, non vorrei sapere dalla foga delle informazioni, sparano lacrimogeni contro qualsiasi gruppo di persone di più di 3 o 4. Prima c'è stato un gruppo di compagni che hanno attraversato dalla parte del popolo, erano 10-15 con le mani in alto, sono stati immediatamente caricati dai carabinieri e alcuni di questi sono stati arrestati. Abbiamo visto il cellulare in questo questo momento che andava via. Noi abbiamo, qui ci abbiamo Benzoni, che appunto ci può dare qualche sua impressione a caldo su questa giornata di polizia in piazza. La mia impressione è che siamo granché diversi da quelli degli altri, ho visto anch'io lo spiegamento estremamente nutrito, le scene così anche di violenza, totalmente inutili nei confronti di poche decine, poi non erano neanche i manifestanti presenti davanti lì al Senato. Vorrei fare solo una considerazione conclusiva, che Roma si è ridotta in questo stato a distanza di 3 anni dal referendum sul divorzio, dimostra quale sia il grado di crisi e di arretramento della situazione politica e generale del nostro paese. Va bene, pronto? Ecco, il vice sindaco Benzoni ha dato la sua impressione su questa giornata. Senti, vorrei dirti che le cariche si stanno oramai quasi impossibile stare attorno a Piazza Navona, perché sparano lacrimogeni appena ci sono gruppi superiori alle 3-4 persone. C'è stata una carica via di Portobisi e un'altra sotto il partito a largo di Torre Argentina. Perciò gli scontri si stanno estendendo, la polizia sta caricando praticamente in un ampio raggio attorno a Piazza Navona. Infatti questa è la notizia che abbiamo anche noi, qualsiasi gruppetto intorno a tutta, ormai su un raggio di qualche chilometro. Ma molto ampio, arriva persino a Piazza Venezia. Infatti, è ampissimo. Noi abbiamo visto mentre venivamo tutta la parte della... Noi qui adesso comincia l'aria a essere irrespirabile, perché il fumo dei lacrimogeni arriva da tutte le parti. Comunque evidentemente tutti i compagni che possono sentirci devono continuare a rimanere in piazza, devono continuare a cercare di fare di questa giornata, come diceva prima Mimmo Pinto, di cercare di fare di questa giornata, che doveva essere una giornata di festa, una giornata di lotta contro questa prevaricazione e questa prevaricazione che ci ha fatto lo stato di polizia nel quale ormai oggi è stata una dimostrazione concreta che ci viviamo dentro. E dare tutte le notizie qui presso la sede di Torre Argentina, dove cerchiamo di fare un coordinamento alle informazioni per poi passare alla Radio Radicale. Adesso hanno telefonato Grazia da Via della Scroppa, dove c'erano una cinquantina di compagni, i quali sono stati caricati a freddo dalla polizia senza che facessero nulla. Un'altra notizia viene da Olga, che ha telefonato dicendo che mentre stavano dalle parti del Senato è passato in macchina l'onorevole La Malfa, al quale hanno chiesto di intervenire perché le cariche cessassero, perché la polizia non fermasse la gente e non ci fossero perquisizioni. La Malfa ha detto: ah, io cosa volete che faccia? Io non ne so nulla. E se n'è andato via con la sua macchina, con l'autista e con la sua Alfa 2000 blu e con l'autista. Questo tanto per dire qual è il comportamento di uno dei cosiddetti padri della Repubblica nei confronti di azioni poliziesche di questo genere. Qualsiasi commento mi pare superfluo. Pronto? Le ultime notizie ci dicono che un signore che abita a Campo dei Fiori sotto il tetto ci avverte adesso che autonomi o presunti tali che sono riuniti a Campo dei Fiori stanno disfrecciando la piazza. L'appello mio è quello che ci si mantenga calmi, non si accettino provocazioni di nessun tipo. Finora la violenza è stata dichiaratamente da una parte sola, e cioè solo dalla polizia. Credo che questo tutti i giornalisti, tutti i fotografi presenti lo potranno confermare. È stata una provocazione voluta, fatta, messa in atto. Chiedo a tutti i compagni, a tutti quelli che intendono manifestare oggi, proprio per il diritto a manifestare, di non accettare provocazioni di nessun tipo e di riuscire a isolare chi tenta appunto di far passare la solita teoria che sarà ripresa, quella degli opposti estremismi, violenza dappertutto, da tutte e due le parti, eccetera. Finora è stata chiaramente una violenza solo da parte della polizia, non ultimo da parte del ministro Cossiga, che continua a rendersi latitante, e chiedo appunto che venga confermato questo carattere della manifestazione. Mi invito i presunti disserciatori, o anzi i disserciatori presunti autonomi, che in questo momento così facendo non sono autonomi per niente, ma seguono evidentemente il piano che Cossiga voleva mettere in atto per oggi, in questo modo appunto dichiarandosi o comunque passandosi come dipendenti da Cossiga, ma sicuramente non come autonomi. Invito tutti alla calma, invito tutti semplicemente a manifestare in modo non violento, perché sia sempre più chiaro e venga fuori domani attraverso tutti gli organi di stampa, che già sappiamo non sono sempre molto imparziali, ma comunque che venga fuori che la violenza c'è stata da una parte sola e solo da parte della polizia. Pronto? Pronto. Ecco, siamo tornati in diretta noi dopo le ultime comunicazioni che ci ha dato Emma. Io sono ancora da Piazza Navona, sono Gianfranco Spadaccia. Niente, io ho sentito adesso questo appello di Emma, che naturalmente, al quale naturalmente mi unisco, e volevo solo fare alcune considerazioni. Ho sentito anche il discorso pronunciato, l'intervento fatto da Marco in aula alla Camera. La situazione è quella che vanno descritto i compagni prima. Siamo in una piazza praticamente assediati, Cossiga ha raggiunto il suo scopo, i tavoli non sono stati messi, le firme non sono raccolte, il diritto costituzionale di esercitare, di chiedere il referendum che spetta a tutti i cittadini è stato sospeso con la violenza della polizia. Le strade d'accesso a Piazza Navona sono, come vanno riferito ripetutamente i compagni, tutte bloccate. Ma il blocco non si limita agli accessi di Piazza Navona, è bloccato molto prima di Piazza Navona, ci sono dei cerchi concentrici, il ponte davanti a Palazzo, il ponte Cavour, credo che si chiami il ponte Cavour, davanti al Palazzo della Giustizia è chiuso, tutto un perimetro che va da Torre Argentina a metà di Corso Vittorio fino al Lungotevere da una parte e si estende a Pantheon, è tutto bloccato dalla polizia. In realtà c'è mezza Roma, cioè la zona centrale di Roma, quella dove passano le grandi linee di circolazione e di traffico, che è ostruita. Evidentemente si è voluto creare volutamente una situazione nella quale tutti coloro che venivano a manifestare e a firmare per il referendum a Piazza Navona e a festeggiare il 13 maggio si confondessero con la folla delle persone che devono spostarsi da una parte all'altra della città e praticamente passare attraverso queste direzioni di traffico. Abbiamo avuto, vi hanno già detto, abbiamo avuto parecchi spari di candelogeri. Io ho invitato alcuni operatori televisivi a riprendere dei gruppi di persone che stavano con pistole in borghese, che non erano chiaramente manifestanti, ma erano dei gruppi di agenti di polizia.